loro reportage. Tra nodi e imprevisti, l'unione e le sfide dell'anno che verrà, di Gigi Donelli. Era un Frans Timmermans visibilmente emozionato, quello che il 20 dicembre scorso ha annunciato a Bruxelles la decisione della Commissione europea di attivare la procedura prevista dall'articolo 7 del Trattato dell'Unione contro la Polonia per la violazione dello Stato di diritto. Lo stesso vicepresidente della Commissione UE ha ricordato che si tratta di una decisione che non ha precedenti. We are doing this for Poland. We are doing this for Polish citizens. Lo stiamo facendo per la Polonia, lo stiamo facendo per i cittadini della Polonia. Questa è almeno la posizione ufficiale della Commissione rappresentata da Frans Timmermans, che spiega un po' quello che è il percorso che ha portato all'utilizzo di quello che è stata definita addirittura in passato l'arma atomica prevista dal Trattato di Lisbona per evitare il crollo dei sistemi democratici in Europa. 2 anni di tentativi di dialogo, di avvertimenti, 25 lettere di Bruxelles alle autorità di Varsavia, 3 raccomandazioni ufficiali, la Commissione, insomma, guardiana di fatto del diritto comunitario, dice Timmermans, non poteva rinviare oltre un atto dovuto. Il presidente, il primo vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, ha presentato dei numeri importanti in conferenza stampa per spiegare quanto sia grave il tentativo, in gran parte già completato, di mettere sotto l'indebito controllo politico dei partiti dominanti in Polonia la Corte Suprema e l'intero sistema giudiziario del paese. Un quadro che compromette il principio della separazione dei poteri essenziali per la democrazia. In 2 anni, ha spiegato, sono state adottate non meno di 13 leggi consecutive che hanno avuto conseguenze sull'intera struttura del sistema della giustizia, il Tribunale Costituzionale, la Corte Suprema, le Corti Ordinarie, il Consiglio Nazionale della Magistratura, la Procura, la Scuola Nazionale della Magistratura. Insomma, il tratto comune di tutte queste modifiche, ha spiegato Timmermans, è che il potere esecutivo o quello legislativo sono stati sistematicamente messi in condizioni di interferire in modo significativo con la composizione, i poteri, l'amministrazione e il funzionamento di questi organismi. Ecco dunque il primo dei grandi temi che naturalmente chiudono il 2017 ma che si proiettano inevitabilmente sul 2018. Insomma, un quadro serio, possiamo ribadire, senza precedenti. Ma adesso, con l'aiuto di Riccardo Alcaro, che è coordinatore delle ricerche responsabili del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali, facciamo il punto su tre questioni che appaiono come le più controverse, quelle che alimentano le difficoltà tra i Paesi membri dell'Unione. Allora, se dovessi fare una classifica, diciamo così, delle tre questioni più controverse che alimentano maggiori contrasti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, direi che al primo posto c'è senz'altro quella dell'immigrazione, seguita successivamente da questa annosissima e mai del tutto risolta questione di come riformare la governance dell'Eurozona e come distante terzo probabilmente le relazioni con la Russia, anche se in prospettiva storica, diciamo, oggi sono gli Stati europei sono un po' più vicini gli uni agli altri di quanto fossero una decina d'anni fa o anche semplicemente prima dell'inizio della crisi ucraina. Quindi immigrazione, direi, nettamente davanti a tutto. E perché ancora? Perché non si trova una quadra? Dunque, il motivo io credo sia essenzialmente di natura di politica interna. L'opposizione all'immigrazione è un punto di un'agenda politica che in questo momento ha un enorme successo. Un enorme successo soprattutto nel portare alla ribalta una serie di partiti che possiamo alternativamente chiamare antisistema, anti-UE, euroscettici o semplicemente, come io credo più giusto, nazionalisti, molti dei quali impiegano anche, diciamo così, metodi populisti. Però anche l'anti-immigrazione, l'opposizione all'immigrazione è un tema a cui sono sempre più sensibili anche settori dell'elettorato che non si riconoscono, diciamo così, nei partiti agli estremi dello spettro politico, più che altro si riconoscono fra il centro e la destra, e che quindi spingono anche i partiti mainstream, i partiti di centrodestra tradizionali, a diventare più rigidi, più intransigenti su quella situazione. dato che questi partiti oggi influenzano pesantemente l'agenda politica in una serie di stati nazione, sull'onda delle immagini, dell'impatto di percezione enorme che si è avuto nel 2015, soprattutto dal 2015 in poi, con questi flussi senza precedenti di migranti in entrata, si è arrivati a una situazione dove l'opposizione all'immigrazione è diventata quasi di natura ideologica, e quindi i partiti e i governi nazionali hanno spesso un vantaggio di natura interna a mettersi di traverso a ogni soluzione che possa essere vista come un allentamento delle maglie, delle frontiere, e questo ha generato un enorme problema di solidarietà interna all'Unione Europea, perché agli stati che hanno nell'immigrazione un problema pratico più urgente, come la Grecia, l'Italia, cioè i paesi di entrata, o la Germania, la Svezia, che sono i principali paesi di destinazione, non si vedono in nessun modo aiutati da paesi come per esempio quelli dell'Est Europa, che pur essendo i più rigidi sul fronte dell'immigrazione, sono anche quelli che meno soffrono del problema dell'immigrazione, perché hanno flussi in entrata praticamente nulli, perlomeno da sud. Convenienza dunque in primo luogo. A proposito di convenienza, il tema dell'euro e della governance dell'euro dovrebbe ritoccare per alcuni versi tasti simili. Sì, con la differenza che mentre l'immigrazione è un problema pratico, diciamo così, per alcuni stati membri e per altri molto meno, il che vuol dire che il calcolo politico il calcolo politico di una opposizione intransigente per alcuni stati non ha nessun tipo di costo in termini pratici, nell'eurozona, e quindi uno può permettersi di essere intransigente perché tanto non ne paga le conseguenze, nell'eurozona invece, accanto a motivi politici di percezioni completamente diverse in alcuni paesi, i cosiddetti paesi creditori, la percezione è che i paesi finanziariamente più, come dire, più laschi di fatto vogliono vogliono trasferire soldi dall'Unione Europea nei loro disastrati bilanci nazionali, mentre nei paesi finanziariamente più in difficoltà la percezione è di che i paesi creditori siano di fatto mostrando zero solidarietà e zero attenzione verso i costi sociali delle riforme che richiedono pur di dare soldi. Dico, al di là di tutto questo però c'è un problema pratico, il funzionamento dell'Eurozona è come dire, un obiettivo di tutti i paesi membri dell'Eurozona e anche dei paesi membri dell'Unione Europea che sono fuori dall'euro. Quindi c'è, come dire, una forza inerziale che porterà probabilmente a una qualche forma di accordo. Il problema è che sarà sempre un accordo difficilmente il migliore sul punto di vista, difficilmente ottimale sul piano, diciamo così, funzionale, perché sarà necessariamente un compromesso. Nello stile dell'Unione Europea. Nello stile dell'Unione Europea, però, ecco, diciamo, sull'Eurozona, per quanto sarà difficilissimo, io vedo una maggiore possibilità, vedo una dinamica sotterranea, strutturale, sistemica, verso una qualche forma di accordo, una serie di piccoli accordi ad hoc, il completamento dell'unione bancaria o parte dell'unione bancaria, eccetera, mentre non li vedo sul fronte dell'immigrazione, perché non vedo nessuna spinta sistemica verso quella direzione. Allora, in conclusione, abbiamo accennato alla Russia. Io credo che ci torneremo su questo tema, sulla grande politica estera. Vorrei approfittare dei 40 secondi che ci rimangono invece per un suo commento sull'attualità, che ci porta piuttosto in Austria e a questa questione dei passaporti. Lei ha detto nella prima parte, quando parlava di immigrazione, che c'è un tema di nazionalismo. Ecco, è questo, come dire, una cartina tornasole di quello che ci aspetta nel 2018? Senz'altro è una cartina di tornasole di quello che ci aspetta nel 2018 e negli anni successivi, perché l'opzione politica nazionalista, che tendenzialmente, non necessariamente, ma tendenzialmente è eurocritica o addirittura euroscettica o anti-UE, antiglobalizzazione, contraria all'immigrazione e tendenzialmente vede il mondo come a rischio di una generale commistione culturale che non produrrà niente di buono, ha acquisito piena legittimità. E quindi l'agenda nazionalista oggi è sempre di più un'opzione con cui si dovrà confrontare l'agenda, chiamiamola così, liberale internazionalista, che è invece quella che ha dominato, perché c'era un consenso bipartisan sia a destra che a sinistra, la politica dell'Europa dal secondo dopoguerra in poi, di fatto. Grazie dunque a Riccardo Alcaro, lo ricordo, coordinatore delle ricerche responsabili del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Tre grandi punti: la crisi dei rapporti con la Polonia, questi sono forse alcuni dei capitoli più importanti, ma sicuramente non i soli, che dunque attendono l'Unione Europea nel 2018. Euroreportage in collaborazione con Euronet Plus.